Che era meglio avere due ricerche invece che una sola, perché visti i tempi morti del CNR, in questo modo qui si riusciva a tappare i buchi. Allora è partita la terza ricerca, che ho di nuovo diretto io, che è quella di sulla storia dell'università. In realtà non è solo storia dell'università, no, perché in realtà si tratta di una ricerca che avrebbe l'ambizione di studiare circa università e scienza nel sistema politico dell'Unione, modelli teorici e modelli istituzionali. Questo qui salta, parla più. E allora questa ricerca, e ne parliamo poi tutto oggi, praticamente ha questo di bello, che è divisa nella sua fase operativa, si può benissimo dividere in due tronconi che procedono in parallelo e che alla fine dovranno dare dei prodotti anche comuni, ma però intanto possono procedere anche in parallelo. Quindi c'è una parte che riguarda più, diciamo così, l'università e gli aspetti e gli assetti istituzionali dell'università, che è quella che finora è stata forse anche più nota all'esterno, perché c'è stata l'occasione molto fortunata, devo dire, per noi, del convegno pisano, anche che ha senese, che ha, ma prima le occasioni offerte da Miller, in modo particolare anche a Pisa, di incontri, insomma, eccetera, eccetera, che ci ha consentito di venire lì e capire, eccetera, no? Quindi questo è proprio, direi, più un troncone che cerca di ricostruire l'andamento storico-istituzionale dell'organizzazione degli studi superiori in Italia, con particolare riferimento proprio alla università e quindi alla dimensione, direi, forse, non dico didattica, ma insomma quella dimensione meno relativa alla scienza, alla storia della scienza, ai contenuti scientifici, ecco. Semmai anche l'organizzazione della ricerca scientifica, per quel poco che c'è, insomma, no? Però sempre dal punto di vista istituzionale. Mentre invece il secondo troncone, riacciandosi alla prima ricerca che noi avevamo fatto e a tante indicazioni anche metodologiche di storia concettuale, come si dice, o dei concetti che sono girati intorno a questo tavolo infinite volte, riacciandosi a quello, no? La seconda ricerca avrebbe l'ambizione di individuare nello stesso arco di tempo, e sempre con riferimento all'Italia come nel primo caso, avendo però un occhio d'amore particolare per la Germania, ecco, cioè, nella comparazione, senza escludere nessuno, però insomma con questa cosa qui, ecco, la seconda ricerca avrebbe l'ambizione di individuare la formazione di concetti politici, concetti che hanno circolazione nell'opinione pubblica e che quindi fanno presa, diciamo così, nel sistema politico, ma che nello stesso tempo sono anche definibili in termini storico-scientifici, nelle diverse scienze, soprattutto evidentemente le scienze sociali, che a noi ci interessano, no, per forza di cose in maniera più diretta, dall'economia al diritto alla sociologia, si cerca di individuare intanto di ricostruire un repertorio quasi di questi concetti chiave, e poi dopo si cerca di capire questi concetti chiave che cosa volessero dire allora e come per quel loro significato potessero in qualche modo essere fattori, no? Insomma, diretti o indiretti del sistema politico, della Costituzione, fattori costituzionali. Vedremo che per questo dedicheremo una parte dei lavori tra oggi e domani, perché è previsto un seminario qui a Trento, però questa volta appunto regolato, insomma, che gestiscono in modo particolare i bolognesi. Questo troncone viene più curato, diciamo così, se si può fare così, dai bolognesi, no? Quindi da Gradi e da Gozzi, eccetera. E per l'autunno, adesso non mi ricordo più che data, ci sarà un seminario in cui ci saranno italiani e tedeschi, perché cercare di fare la comparazione, abbiamo cercato di individuare concetti validi nei due sistemi politici, nelle due costituzioni, e ci saranno brevissimi interventi, poi ne parliamo. Ecco. Una ulteriore richiesta di ricerca CNR dopo questa terza, quindi le prime due sono finite, la terza è in funzione adesso ed è quella che ho appena detto, una quarta è già partita la richiesta, speriamo che venga, poi altri ci diranno delle notizie, che venga approvata, di nuovo diventa dato Mazzacane, di nuovo su problemi più, diciamo così, orientati all'aspetto giuridico, storico-giuridico, in ordine però alla formazione anche lì dell'opinione pubblica e della classe dirigente italiana tra 8 e 900, passando attraverso queste figure professionali molto importanti per quell'epoca, ancora forse più che oggi, dei cosiddetti giuristi, siano essi avvocati, notai, magistrati, insomma la loro formazione, la loro, il modo come la professione viene esercitata, gli effetti che l'esercizio di questa professione, la mentalità giuridica, eccetera, eccetera, produce o non produce sul piano, se ho detto bene, insomma, più o meno questo. Ecco. Quando anche questa sarà accolta, allora avremo un altro, passeremo dallo studio dell'università, perché noi, come sapete, come diremo ancora oggi, l'interesse che abbiamo per l'università e per la scienza fra 8 e 900 è un interesse che abbiamo per l'università e la scienza, non come strutture vuote, separate, di cui non ci importa nulla di conoscere la storia in quanto tale, insomma, no? Ma bensì come luoghi, secondo noi, in ipotesi, fondamentali, costitutivi a loro volta, di formazione del sistema politico italiano, di quell'epoca. Cioè noi diciamo l'università e la scienza di nuovo come fattore costituzionale, questo ci interessa. E quindi ci interessa, interessano tutti i livelli in cui questa funzione costituzionale si può esercitare, da quello di legittimazione a quello di formazione della classe dirigente a quello di formazione di una classe, di un'opinione pubblica. Quindi a diverse gradazioni, no? Eccetera. Allora dopo diventa naturale che, portando avanti questo discorso, in grande sistema universitario complessivo, sulla scienza sociale complessiva italiana fra il Novecento, ci possa essere un'applicazione sulla scienza giuridica e sulle relative professioni, perché riteniamo che nell'ambito di tutto questo sistema di scienze sociali la scienza giuridica occupa senza dubbio in quell'epoca il ruolo di gran lunga, quantitativamente e qualitativamente dominante. Ecco, questo era il discorso, insomma, un po' introduttivo che volevo fare, perché spero che in questo modo abbiamo anche appunto i gentilissimi nuovi amici che ci sono, capiscono qual è il nostro progetto, che è un progetto un po' sbilenco, un po' così occasionale anche, eccetera, però è un progetto che ci ha dato moltissima soddisfazione fino adesso e noi conteremo ad andare avanti, eccetera, eccetera, eccetera. Devo scusare l'assenza di l'unico che mi ricordo di scusare è povero Corni, che gli è venuta l'influenza e quindi stamattina ha telefonato che non poteva venire e mi spiace molto. E poi degli altri mi pare che più o meno ci sono tutti, però ci sono la Soldani, che è stata travolta dall'occupazione e dice che non può più resistere se non sta con gli studenti un po', perché deve recuperare il tempo perduto, e Pogliano, che aveva da fare qualcos'altro, ecco. Che però sono per noi. Ecco, lei riferisce. Quello è importante. Questi sono nuovi. Soldani e Pogliano sono nuovi. Non facevano parte del nostro gruppo. Ne farebbero parte d'ora in avanti rispetto a questo specifico tema dell'università, della storia dell'università, eccetera, eccetera. Quindi è un fatto molto importante. Se la Piretti non è potuto venire neanche lei. Ma poi dirà, quindi insomma, c'è ancora altra gente, quindi sono tanti, ragazzi, bellissima sta roba. E dopo ci sono, cosa facciamo? Si proponeva di presentare questi forse nuovi che ci sono, io farò molte gaffe perché, come ripeto, non mi ricordo mai i nomi. Comunque, a prima vista direi che c'è la signora Polenghi e questo va bene, poi la signora Ferraresi, perfetto. Qui abbiamo un robo in ordine alfabetico, che non c'è, ecco. E poi la signora Visconti, quello. Ah, e poi c'è Stolberg, e poi di nuovi non c'è più nessuno, tranne Raicic e Miri, naturalmente. Ecco, allora, ricordo di questo problema che ci spiega, come appunto molti, anche nel nostro gruppo non c'è, no? Io vorrei ricordare che in quella circostanza E poi dopo, anzi, pregherei il professor Miri se ci può dire qualcosa anche sull'andamento per le pubblicazioni di queste cose qui, insomma, se ci sono delle speranze, no? Perché naturalmente a noi interessa molto. Questo era un convegno intitolato Università ieri e oggi, offerta formativa e domanda sociale, ed aveva, diciamo così, due parti abbastanza separate fra loro, anche come obiettivi. Una parte, che era la seconda, era intitolata L'Università di oggi, l'avvio di una fase costituente, questo si è svolto ai primi di dicembre, cioè immediatamente prima del risveglio studentesco, e lì c'erano presenti signori che avevano contribuito alla discussione, al dibattito e anche alla produzione legislativa rubertiana, come per esempio Berlinguer, che è naturalmente il rettore, Cassese, Prodi, e altri che hanno parlato lì. Mentre invece la prima parte era più dedicata a problemi di storia della università, i caratteri originali dell'università italiana, era intitolata, no? E qui avevo fatto relazione, un intervento prima io, sui modelli di università nell'Ottocento europeo. Poi dopo la Porciani, lo Stato unitario di fronte alla questione dell'università. Moretti, 50 anni dopo, la Commissione Reale per il Riordinamento degli Studi Superiori. Melis, ecco, è un altro che devo scusare, perché cioè, se ci sia Melis, che sua moglie, se non mi ricordo mai come si chiama, Fois, Giuseppina Fois, che lei studia in modo particolare, credo, problemi dell'Università di Sassari, proprio, dell'Ottocento. Mentre invece Melis, come sappiamo tutti, essendo questo grosso storico che è dell'amministrazione, insomma, no, pubblica, eccetera, si occupa, come si è occupato anche Siena, del problema dei professori in quanto funzionari dello Stato, fondamentalmente, ma con grandissima abilità, insomma, è molto bravo, sappiamo tutti. L'amministrazione centrale, origine e sviluppo della Direzione Generale dell'Istruzione Superiore, era il suo titolo, no? Quindi, che Melis. Poi dopo c'era Recuperati, dalla riforma Gentile ai nuovi ordinamenti del 38, la Luisa Mangoni, le facoltà di scienze politiche e la scuola di studi corporativi, nuovi profili professionali nell'iniziativa dell'Università Cattolica e del fascismo, e Torrini, di Napoli, le scienze nelle università italiane e l'organizzazione della ricerca scientifica. Quindi era un corpo molto, mi pare, insomma, abbastanza tosto, insomma, no? Di riflessione sulla storia dell'università italiana, al quale in buona misura abbiamo contribuito anche noi, diciamo così, come gruppo, per quel che vale, e a cui quindi bisogna anche ricollegarsi noi per andare avanti e per fare in qualche modo una nostra proiezione di lavoro, insomma, perché è logico, no? Questo è un primo discorso. Ma un secondo discorso è che poi dopo a questo qui si sono attaccate sono seguite delle altre iniziative di insomma, dibattito, di incontro, sullo stesso tema, adesso io non so se mi sono in mente tutte, ma certamente Torrini mi richiama la settimana napoletana, di cui adesso dice, dite Mauro, relazionate voi su questo, adesso o dopo apposta?